America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, seconda puntata di questo viaggio transatlantico di gastronauti guidati da Oscar Farinetti per godersi un po' delle prelibatezze italiane, ma anche per parlare di problemi di Italia e del nostro futuro. Farinetti è già arrivato, intanto lo abbiamo un momento ai nostri microfoni, poi lo ascolteremo nel giorno in cui ci sarà l'ingresso ufficiale, cioè giovedì. Oscar, quanto è durato questo viaggio? Guarda, noi siamo partiti da Genova il 25 aprile, poi siamo arrivati il 10 maggio a Madeira, che era l'ultimo, chiamiamolo, avamposto del vecchio mondo, insomma, no? Poi in 15-16 giorni abbiamo attraversato l'oceano. Ecco, vi dicevo, parleremo poi con Farinetti giovedì, il giorno dell'ingresso ufficiale. Vorrei raccontarvi un po' dei principi, dell'ispirazione che hanno portato a questo viaggio. Primo, la riforma della politica, meno politici, più politica. Due, ridurre la spesa corrente, come si fa in famiglia. Tre, migliorare le entrate, chiedere per stimolare. Quattro, l'esercito e la diplomazia, smettiamola di giocare alla guerra. Cinque, l'Italia nel mondo, investiamo sulle nostre vocazioni. Sei, la giustizia, l'integrazione, l'ambiente e l'energia per la qualità della vita. Sette, per la semplificazione verso la laicità, meno leggi, più disciplina, meno chiesa, più Gesù. E dunque, sulla base di questi messaggi ispirati, noi abbiamo deciso di chiedere un parere a un altro dei partecipanti a questo viaggio. Abbiamo sentito prima Alessandro Baricco, oggi sentiamo Giorgio Faletti ai microfoni di America 24. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a tutti. Allora, dunque, ma qui innanzitutto c'è un sospetto, ne abbiamo parlato, ti dirò, anche con Alessandro Baricco, e insomma il sospetto è che qui ci sono questi piemontesi, perché siete in maggioranza piemontesi, che non si affacciano sul mare, non hanno grandi laghi, eppure si sono tutti buttati in questa barca a vela. Qual è la storia? Ma io penso che Farinetti, che è il promotore di questa avventura, essendo piemontese, abbia avuto un occhio di riguardo verso i piemontesi. Poi per quello che riguarda me personalmente, pur essendo io un contadino di estrazione, vivendo ora al mare, io da qualche anno risiedo abitualmente all'isola d'Elba, ho sviluppato nei confronti del mare una forma di tossicodipendenza e dunque l'idea di trovarmi in un'isola galleggiante, ma che però si può spostare, come può essere considerata una barca, ecco, era stata una cosa molto, molto stimolante. Ecco, e quindi com'è andata? Avete cantato, avete mangiato, perché so che c'erano anche dei cuochi a bordo, quindi una cucina. Io vorrei un pochino sfatare questo mito di questa barca di Bengodi che si sposta in mezzo all'oceano. C'è stata ovviamente una forma di convivialità più legata alla compagnia che alla curiosità del cibo, perché quella storia che è stata detta, che c'è un limite di 4,5 euro a persona per quello che riguarda la spesa del cibo, è vera. Poi ci sono stati ovviamente degli omaggi, paroli vari, eccetera. Comunque non si è trattato di crapula. E sicuramente c'è stata una forma, come ho detto, di convivialità, di compartecipazione di questa impresa e soprattutto ci sono state diverse e molto gratificanti, io mi auguro costruttive, discussioni su quello che potrebbe essere il futuro dell'Italia e quali potrebbero essere i suggerimenti per migliorare questo futuro. Ecco, il futuro dell'Italia. Abbiamo avuto delle elezioni, si discute molto del futuro dell'Italia e una delle idee era proprio quella di fare alcune proposte. Quali sono, secondo te, le più importanti che sono emerse durante le vostre chiacchierate sotto le stelle? Sono state fatte delle proposte che mi trovano quasi in toto d'accordo, perché sono delle cose che riguardano il buon senso, che purtroppo in molti casi nel nostro paese è stato dimenticato, l'osservanza delle regole, una maggiore giustizia fiscale e soprattutto le indicazioni sul modo per ottenere queste cose. Veniamo all'America, questa barca arriva in America, è una barca che così simbolicamente aggancia questi due paesi. Poi sappiamo che Oscar ha aperto questo Italy, che ha avuto un enorme successo qui a New York, devo dire. Io mi rifornisco sempre quando posso di Agnolotti, e tu anche conosci l'America, hai scritto, hai ambientato molti dei tuoi libri sull'America. Quando è che hai conosciuto o che ti sei rapportato con l'America per la prima volta? Ma io relativamente tardi, ma mi sono rapportato con l'America quando ho scoperto che le idee per i miei romanzi avevano un substrato, un soffritto, per dirla in termini gastronomici, che non poteva essere applicato all'Italia, ma che aveva la necessità dei respiri della società americana. E di conseguenza ho ambientato alcuni dei miei romanzi in America e ho frequentato New York. Adesso in questo momento possiedo una piccola casa a New York nella quale passo diverso tempo e sto cominciando a conoscere la città. Io passo da una realtà molto, come dire, rarefatta come quella dell'isola d'Elba al massimo del casino che è possibile trovare al mondo, che è Manhattan, e di conseguenza questa dicotomia mi esalta, mi piace. Fermo restando il concetto che mi sono reso conto che l'italianità è una cosa molto ambita in America. Per chiudere, il prossimo romanzo sarà ambientato in America? La cosa bizzarra è che dopo aver scritto 4 romanzi ambientati in America, paradossalmente l'America si è accorta di me in modo macroscopico con il mio primo romanzo ambientato in Italia. Cioè, sono stato a New York recentemente a parlare con il mio editore americano, che con mio grande stupore è una delle case editrici più prestigiose d'America. E difatti mi sono trovato in questa sala d'attesa, in attesa di parlare con il responsabile editoriale, che è un guru dell'editoria mondiale, circondato da targhe di premi Nobel, premi Pulitzer e quant'altro. E la cosa, devo dire, mi ha molto emozionato. Per cui penso che il mio prossimo romanzo sarà di nuovo ambientato in Italia e avrà un riferimento abbastanza preciso con quello che è appena uscito, Appunti di un venditore di donne. Ecco, scusa Giorgio, come ultima cosa, diciamo qual è il tuo editore americano? Il mio editore americano è la Farrar, Straus e Giroux. È una delle case editrici leggendarie, una delle antiche, sì, esatto, case editrici americane. No, certo. Editrice, quando mi hanno detto che il mio romanzo è stato comprato da loro, mi sono un po' tremate le gambe, come è giusto che sia. Dimentichiamo per un attimo la mia età, ho svoltato i 60 da poco, e teniamo presente che in realtà come scrittore sono un neofita, perché ho pubblicato il mio primo romanzo nel 2002. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Spencer Krug, alias Moonface, ha pronto per il 2 agosto un album dal titolo Organ Music, Not Vibraphone Like I'd Hope. Una musica che Krug descrive così: è come mangiare un piccolo ma sostanzioso pezzo di cheesecake, direi in perfetta sintonia con la cucina di Farinetti, in anteprima di Moonface, Fast Peter. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.